S'amor non è, che dunque quel che io sento, ma sei gli amor, per Dio che cosa è quale? Sei buona un dell'effetto aspro mortale, seria onde si dolce ogni tormento. Sa mia voglia ardo, onde il pianto e il lamento, sa mal mio grado, il lamentar che vale. O viva morte, o dilettoso male, come puoi tanto in me, se io non consento. E zio il consento, a gran torto mi doglio, fra sì contrari venti, in fra le barche, mi trovo in alto mar, senza governo, si lieve di sever, d'error si carca, chi medesmo non so quel ch'io mi voglio, e tremo a mezza estate ardendo il verno, e tremo a mezza estate. Sa mal mio grado, il lamentar che vale. O viva morte, o dilettoso male, come puoi tanto in me, se io non consento. E zio il consento, a gran torto mi doglio, fra sì contrari venti, in fra le barche, mi trovo in alto mar, senza governo, si lieve di saver, d'error si carca, chi medesmo non so, quel ch'io mi voglio, e tremo a mezza estate, ardendo il verno, e tremo a mezza estate, ardendo il verno.